In questo lunedì 26 settembre, allora, è la politica soprattutto e l'economia e la finanza sono i due grandi temi che trovate sviluppati sui giornali. Intanto una carrellata dei titoli di apertura al Sole 24 Ore: crescita, tutte le riforme a metà. Questo è il titolo dell'edizione del lunedì. Per il Corriere della Sera invece 3.000 miliardi contro la crisi, il piano dei grandi per l'euro. Per Repubblica, Berlusconi, non mi dimetto, questo è uno stato di polizia. Per La Stampa, lascio se mi sfiduciano, è sempre Berlusconi. Il Giornale, Fini torna a Monte Carlo e prende spunto da un'intervista del Presidente della Camera a Sky ieri, in cui ha parlato della famosa inchiesta del Giornale. E anche per il Secolo XIX, 3.000 miliardi per l'euro, così il Messaggero, il piano per salvare l'euro, mentre l'Unità mette in primo piano la forza della pace, ieri la marcia per la pace, Perugia, Assisi, un popolo in marcia, ma anche piano G20 per salvare l'euro. Voglio partire da due segnalazioni di due fatti negativi, due fatti di cronaca nera, che però secondo me vanno raccontati insieme, perché raccontano due spaccati vissuti in due grandi città diversi, ma che insomma aiutano a far riflettere. Infatti il Messaggero, a mio modo di vedere, fa la scelta editoriale più giusta, li racconta nella stessa pagina, uno sopra l'altro. Beh, intanto a Torino è avvenuto questo, lo leggo dalla Stampa, tutti i giornali vi dedicano una pagina: aperitivo da Platti con la cliente suicida nei bagni. Uno shock a Torino, lo storico caffè Platti appunto resta aperto nonostante una signora si sia suicidata in bagno, con la titolare che dice: è stato un incidente, perché avrei dovuto chiudere? Massimo Numa racconta da Torino per la Stampa, pagina 18, ore 10, centro di Torino, la signora Christine, 66 anni, vedova, madre di una figlia, esce dal suo alloggio di Corso Arimondi, va in uno dei locali storici, Platti, molto noto, ordina la colazione, finisce, paga, entra nel bagno e si spara. A quel punto che cosa succede? Beh, succede che la titolare Pierina Gianni decide di non abbassare le serrande, di non chiudere il bar e il ristorante, nemmeno per il tempo necessario per chiudere le indagini e rimuovere il cadavere. Niente. Cameriere impassibili in giacca scura e farfallino, continuano a servire le persone rimaste nella sala centrale nel Dehor. I bagni sono due, basta uno dei bagni dunque, nell'attesa che tutto si risolva nel più breve tempo possibile. Ovviamente è un via vai di polizia, al medico legale. E lei che dice: perché dovrei chiudere? È stato un incidente, come se uno fosse morto per malore. La zona interessata è isolata, negli altri settori non ci sono problemi. Ma insomma, questa vicenda viene raccontata da tutti i giornali, appunto il Messaggero la mette così: si uccide al bar, il locale resta aperto, cadavere dietro un paravento, la titolare, aspettavamo dei clienti. E il secondo racconto, che proviene da una città, in questo caso Milano, abbiamo sentito anche nel giornale radio, è quello di un altro ennesimo episodio. Chissà perché gli italiani nel traffico perdono la testa, nel traffico danno il peggio di sé, buttano fuori a volte delle frustrazioni personali proprio nel momento della coda in traffico, nel momento in cui succede qualcosa in macchina. Sta di fatto: feriti a colpi di crick dopo un sorpasso. Questo è il titolo di pagina 23 del Corriere della Sera. Due ragazzi gravi, nei video si cerca l'aggressore, un uomo di 50 anni, il racconto è delle due vittime, 19 e 21 anni, si è arrabbiato perché secondo lui nel sorpasso lo abbiamo sfiorato. Un sorpasso a dir poco azzardato che ha scatenato la brutale reazione di un automobilista, colpi di cricca, ha massacrato questi due ragazzi di 19 e 21 anni, entrambi ricoverati in prognosi riservata in ospedale. Per entrambi non c'è pericolo di vita, ma certo un episodio che, per esempio, il Corriere mette appunto un commento di Isabella Bossi Fedrigotti, proprio a chiedersi l'incubo della violenza che non ha età. Chissà gli insulti che si sono scambiati i due ragazzi e l'altro, il cosiddetto cinquantenne picchiatore, chissà i gesti e le minacce, ci può stare anche la paura di uno un po' vecchietto contro due giovani e gagliardi, oppure un'offesa di troppo da vendicare subito all'istante, il tutto condito magari da numerosi bicchieri, ma prendere il bastone, la spranga o il crick e mirare dritto alla testa, mandando uno dei due avversari quasi all'altro mondo e ferendo l'altro in modo grave, questo non ci sta. Non ci può stare. Sarà la strada che rende assassini o sarà il graffio sulla carrozzeria della macchina che vale evidentemente quanto una ferita nella carne viva, certo è che sempre più spesso in strada, in macchina, si dà il peggio di sé. E appunto, come dicevo, anche per il Quotidiano Nazionale una pagina: massacrati per un sorpasso, ancora follia in strada a Milano. Vabbè, sono due episodi appunto avvenuti in due grandi città dai quali mi interessava partire, mentre da una piccola città, una piccola isola, un'isola che però spesso è al centro della cronaca, lo sarà con noi anche alle 8:20 quando avremo il sottosegretario all'interno della Lega, Sonia Viale, è Lampedusa. Lampedusa oggi c'è una novità che viene anticipata dalla stampa, che riguarda il suo sindaco, che era nostro ospite anche nei giorni scorsi. De Rubeis e le tangenti, puoi pagare a rate. Il sindaco Bernardino De Rubeis, 43 anni, che è stato rinviato a giudizio per concussione perché tre imprenditori lo accusano di avere percepito delle tangenti, è solo che Nicolò Zancan per la stampa ora dice, la stampa mette tra l'altro l'audio anche sul sito, ha potuto ascoltare delle cassette nelle quali, registrate da questi tre imprenditori, nella quale si sente la voce presumibilmente del sindaco De Rubeis che tratta tangenti, insomma. E minchia, mi fai preoccupare, li hai trovati i 10.000 euro che ti resi? Sì, sì, stanno preparando tutti i documenti. E fermi tutti, quello che sta parlando e che dice di aver preso i soldi, impegnarsi per risolvere il problema, è il sindaco di Lampedusa. In questi audio che la stampa ha potuto ascoltare c'è questo imprenditore che dice: eravamo di fronte l'uno all'altro nel suo ufficio, io pensavo intendesse 5.000 euro, ma ha fatto il gesto con la mano, 5, e invece intendeva, sottovoce me lo disse, 50.000 euro. Quello che in una intercettazione, in quest'audio di questa videocassetta, di questa audiocassetta per la verità, definisce De Rubeis: non c'è dubbio che il coltello sta dalla parte del manico, è nostro, ti ho chiesto una cortesia. Ecco, scrive la stampa, come si chiamano le tangenti qui a Lampedusa. Cortesie. De Rubeis e le tangenti, puoi pagare a rate. E domani questo nastro verrà prodotto in aula, un nastro che, scrive la stampa, accusa il sindaco di Lampedusa. Ripartiamo dalla situazione economica e finanziaria, della politica interna, tra 6 minuti. 24 mattino. Allora, alle 7:33 minuti, continuiamo la lettura dei giornali. La parola chiave della politica in questi giorni è dimissioni, o col punto di domanda, dimissioni. Allora, beh, intanto Berlusconi fa sapere in un paio di interventi pubblici che non ce n'è da quel punto di vista. Lascio solo con la sfiducia. Non ci dimetteremo se non attraverso un voto di sfiducia, che mi sento di escludere, ha detto il Premier intervenendo ieri a una kermesse elettorale del Popolo della Libertà. Non possiamo andare incontro alle aspettative dei media e dell'opposizione. L'altra parola, dimissioni, riguarda ovviamente Giulio Tremonti, che è tornato dalla missione al Fondo Monetario Internazionale a Washington e sapete accompagnato da anche molte critiche e da un rapporto certamente da ricomporre, qualcuno dice mai arrivato a questi livelli di scontro politico tra lui e lo stesso Berlusconi, anche se il Corriere scrive con Marco Galluzzo a pagina 6: la ricomposizione sembra possibile, una cabina di regia è lontana, ma con il super ministro la ricomposizione è possibile. Con Tremonti no, dicono, forse sperano persino nello staff del Presidente del Consiglio. Con Fini era una missione impossibile. Con Tremonti invece no. Sarà forse una missione snervante, ci sarà forse da fare buon viso al cattivo gioco, magari sarà raccontata al pubblico qualche bugia, ma una forma di ricomposizione, per quanto difficile, andrà trovata. Così dice il Corriere della Sera. E allora bisogna fare attenzione, lunedì spesso la politica si concentra su qualche intervista e allora ecco per esempio che Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera intervista Renato Brunetta. Uno dei temi maggiormente sviluppati da tutti in questi giorni è basta dare tutto il potere dell'economia in mano a una sola persona, a un ministro, al super ministro Giulio Tremonti. È il caso forse di spacchettare il ministero dell'economia tra finanza e tesoro, per esempio. E Brunetta va in questo senso: Tremonti resti, ma basta antibiotici, ci vogliono le vitamine delle riforme. Così, intervistato da Aldo Cazzullo, Brunetta intanto dice: le dimissioni di Tremonti no. L'errore che abbiamo fatto, ed è stato un errore collettivo, è pensare che Tremonti potesse sempre risolvere tutto. C'è stato un eccesso di delega, Berlusconi non glielo deve più consentire. Adesso poi è l'ora delle vitamine, vitamine strutturali, le riforme. Brunetta parla anche delle inchieste e delle cosiddette cene eleganti con il Premier. Vedo un mare di ipocrisia in giro, dice Brunetta. Chi è senza peccato scagli la prima pietra. Cosa si troverebbe intercettando magistrati, banchieri, giornalisti? Il mio consiglio a Berlusconi è questo: più lui fa il Premier, più lui cambia l'Italia, più ridicolizza i suoi persecutori. Poi Brunetta dice no alla patrimoniale. La patrimoniale è una foglia di fico voluta dai poteri forti per nascondere le rendite di posizione. E eccola lì che torna l'espressione: i poteri forti sono le rendite di posizione nel nostro paese. Finanza, public utilities, patrimonio pubblico, cattivi sindacati, una mano morta sull'Italia. Così dice Brunetta. E insomma, in questa intervista però rilancia l'idea delle riforme. Anche il ministro Frattini, il ministro degli esteri, viene intervistato dal quotidiano nazionale. Giulio, ora adeguati, tocca a Berlusconi coordinare la politica economica. Ecco, anche Frattini dice questo, no? Non basta dare tutto in mano a una sola persona. Torniamo al coordinamento della politica economica da parte del Presidente del Consiglio. Torniamo a fare come si è sempre fatto. Credo che, essendo una persona intelligente, Tremonti non la debba prendere come una diminuzio. C'è un presidente che è un primus inter pares, cioè un primo tra uguali, e gli altri sono pares. Cioè, quindi Frattini dice: se c'è uno primo è il presidente del Consiglio, gli altri devono essere tutti pari. Insomma, Giulio, ora adeguati. Tra l'altro, in questa intervista Frattini risponde per la prima volta a quello che da un paio di giorni è stato presentato con alcune foto, anche la presenza in un suo viaggio a Panama, un viaggio ufficiale da ministro, di Walter Lavitola, che è latitante in questo momento a Panama, una presunta persona che ha fatto questa estorsione, danni del Presidente del Consiglio, e che è latitante appunto a Panama e che era in questa visita di Stato con Frattini. Spiega così Frattini: molto semplice la spiegazione, quando si muove il Ministro degli Esteri lo fa in modo formale, non è immaginabile che si possano imbarcare persone che non siano strettamente funzionali alla missione diplomatica. Lavitola quindi non era nella delegazione. Arrivato a Panama, sono andato al ricevimento con altre centinaia di persone, c'era anche Lavitola, che aveva una conoscenza pregressa con il presidente di Panama, Martinelli, e per questo si è seduto al nostro tavolo. E all'epoca non mi pare ci fossero provvedimenti giudiziari a suo carico. Questa è la spiegazione di Frattini. In ogni caso, la ricomposizione Tremonti-Berlusconi, a questo si lavora, secondo Repubblica con Carmelo Lo Papa, pagina 3, questo anatema di Silvio su Tremonti qualche giorno fa riaccende anche l'allarme del Colle. C'è un presidente napolitano che segue ora per ora l'evolversi della crisi, che è certo finanziaria internazionale, ma che a Roma ha un'aggravante politica, scrive Lo Papa, perché aver mandato Giulio Tremonti quasi allo sbaraglio a Washington, screditato da pesanti giudizi del Premier, come quello immorale per il fatto di non essersi presentato al voto sulla richiesta d'arresto dell'onorevole Milanese, infilato da giudizi sprezzanti degli altri ministri, è il tutto mentre il ministro dell'economia rappresentava il paese al G20. Ecco, è bastato questo spettacolo per il quale il Quirinale avrebbe preferito non assistere. Dunque c'è un napolitano che, secondo Repubblica, viene dato preoccupato. Tra l'altro, ieri Tremonti è tornato e pare, racconta Repubblica, che abbia incrociato in aeroporto Rutelli e l'amministratore delegato dell'Enel Fulvio Conti, e parlando coi suoi Rutelli ha confessato di essere rimasto basito per il pessimismo cosmico, quasi disperato, del ministro dell'economia. A dispetto delle rassicurazioni pubbliche date, Tremonti si sarebbe lasciato andare a giudizi catastrofici sulle prospettive europee, sulla crisi americana e sul ruolo delle banche. Questo secondo quanto dice Rutelli. Tra l'altro, a proposito di riforme, oggi il Sole 24 Ore rilancia il fatto che bisogna puntare sulla crescita e tutte le riforme che sono a metà. Lo sviluppo riparte dalle incompiute. Cristiano Dell'Osto e Giovanni Parente raccontano le liberalizzazioni le reti digitali, le grandi opere, l'edilizia, le semplificazioni, il settore energia, tutto questo a pagina 3, tutto quello che per esempio è stato annunciato e lasciato incompiuto. Ma esempi pratici, per esempio, un esempio concreto, partiamo da questo, raccontano dell'oste parente, l'autotrasporti riletti SNC. Se la politica avesse tenuto fede ai patti, oggi il titolare della ditta potrebbe scegliere di pagare le imposte con l'IRES al 27,5% anziché con l'IRPEF ad aliquota variabile. Lo prevedeva la finanziaria del 2008, ma il provvedimento attuativo si è perso nel cambio legislatura. Oppure i crediti verso la pubblica amministrazione. Se il signor Riletti ha tra i suoi clienti una ASL che tarda a pagare una fattura di 5.000 euro, la manovra estiva del 2010 gli consente di scalare la cifra delle imposte dovute al fisco. Peccato che manchi ancora il decreto ministeriale senza il quale la legge è come non esistesse. Ecco, allora, si parla tanto di liberalizzazioni, liberalizzazione dei servizi pubblici, l'energia, gli incentivi per le imprese, le norme, le riforme. Poi magari ci sono delle riforme che sono o a metà o sono incompiute e questo rallentano poi l'economia. Anche se torna, cari ascoltatori, dobbiamo farci l'abitudine, ogni due giorni in Italia questa parola rispunta come un fungo settembrino, la parola condono. Oggi è La Stampa che rilancia su questo, Ugo Magri, che è uno sempre ben informato su quello che succede attorno al presidente Berlusconi, il sogno proibito si chiama condono. Il Cavaliere anticipa il rientro a Roma, in serata ha sentito Gianni Letta. E il vero pozzo di denari, scrive Ugo Magri a pagina 3, in cui tutti pensano, perlomeno nel PDL, si chiama condono. Fiscale o edilizio, parziale o tombale, non ha importanza, purché vi si attinga senza falsi pudori. L'armistizio con Tremonti dovrebbe consistere in questo. Il partito cessa di attaccarlo, si mette la sordina a Brunetta, agli altri critici del professore, in cambio lui finge di dare ascolto ai colleghi di governo, consente qualche operazione di finanza straordinaria fin qui negata e insomma tra queste chissà il condono. Tra l'altro, a proposito di patrimoniale, che è un altro dei temi sempre in primo piano, il Sole 24 Ore fa sapere che riguardo alla patrimoniale, le tasse sui ricchi, il primato spetta all'Olanda, ma anche l'Italia è messa male dal punto di vista del prelievo fiscale. A pagina 5, tasse sui ricchi, carissima Italia, solo l'Olanda supera il nostro livello di prelievo, seguono Gran Bretagna e Spagna per quel che riguarda la patrimoniale. Scrive Franca De Ponti, in effetti Mr. Obama ha più di una ragione a voler alzare l'asticella del prelievo sui super ricchi d'oltreoceano. Perché? Facciamo l'esempio, in America un single con 350.000 euro di reddito e un patrimonio da 1.000.000, questo è un super ricco, per le tasse americane paga 105.863 euro di patrimoniale. Ad Amsterdam, in Olanda, il record pagherebbe 176.000 euro, ma in Italia 150.000 euro, se si applicano insomma le ipotesi che circolano, 150.000 euro. Dunque, non ai livelli di Amsterdam, dove pagherebbe 176.000 euro, ma certo non ai livelli degli Stati Uniti, dove si pagano 105.000 euro. Questo per quel che riguarda la patrimoniale. Tra l'altro, a proposito di rilancio, a proposito di riforme, voglio segnalarvi che il Sole 24 Ore oggi fa un rapporto dedicato all'energia. Tutti i campioni dell'energia made in Italy. Sono diverse pagine allegate al quotidiano perché sono molte le imprese italiane nel mondo nei settori dell'impiantistica a livelli di eccellenza in Italia, che si occupano appunto di impiantistica, fonti rinnovabili, servizi e tech nel campo dell'energia. E su questo rapporto, ecco il Made in Italy 2.0, questo è il titolo del rapporto di 22 pagine che trovate allegato al Sole 24 Ore, si dedica a questo tema. Dopo il traffico voglio ripartire da uno scontro al calor bianco giornalistico tra un conduttore di Rai 3 e Giuliano Ferrara. Oggi c'è un'appendice a questo, che c'è stato uno scontro in video sul Foglio. Allora, lo scontro al calor bianco giornalistico è tra Massimo Bernardini, conduttore su Rai 3, e Giuliano Ferrara. C'è stato un prologo nel... Io non l'ho vista, ma insomma pare che Giuliano Ferrara sia molto arrabbiato quando nella trasmissione è stato fatto un paragone tra Domenistro Scan e Berlusconi, con anche il conduttore che un po' rideva o sorrideva. Pare che Giuliano Ferrara abbia detto: smetta di ridere, le auguro di essere intercettato mentre parla con una puttana. Questo ha detto Giuliano Ferrara al conduttore. Oggi Massimo Bernardini scrive una lettera al Foglio parlando insomma di tutta questa vicenda, e la risposta di Giuliano Ferrara: caro Bernardini, gliene ho dette di tutti i colori su Rai 3 alzando molto la voce, le confermo argomento e sostanza. Paragonare un uomo scaltro e perbenista, vale a dire Domenistro Scan, accusato di stupro da una giustizia giusta che lo ha santamente prosciolto dopo doverosi accertamenti sulla credibilità di un processo, e un uomo, Berlusconi, perseguitato con accanimento sottoborbonico da magistrati puritani o frivoli, la Boccassini o Woodcock, che hanno preteso di tenere sotto controllo totalitario le sue bisbocce innocenti e galanti e naturalmente scandalose, come è scandaloso tutto ciò che è veramente privato, questo mi fa schifo e sparo. E poi parla di la vicenda Ruby, che definisce Ferrara Karima El Marugo, ora sposata spero felicemente, futura madre. Viene da una famiglia sconclusionata e misera, trapiantata nel sud italiano, ha fatto le sue scelte, è stata quel che è stata e non merita la prima pietra di nessuno. E quando si è trovata in difficoltà la questura di Milano, questa ragazza, che non ha mai avuto meno di 18 anni prima di compierne 18 e dispiace, come tutti coloro che l'hanno vista in foto sanno in cuor loro, è stata aiutata personalmente e mitemente, non concussivamente, da un presidente del Consiglio affaccendato a Bruxelles. Vorrei che Berlusconi si scusasse per le cazzate che ha fatto, ma in fondo, sebbene sia anch'io un peccatore cretino e perbenista, non gli ho mai voluto tanto bene come quella volta che ha fatto la cazzata suprema degna di un vero gentiluomo, tirare fuori personalmente e istintivamente dai guai un'amica, senza nemmeno ricorrere a un qualsiasi ometto della sua catena di comando, inventandosi la geniale trovata alla Totò della nipote di Mubarak. Così Giuliano Ferrara. Poi insomma ancora dice: mi fa un certo imbarazzo le sue gentilezze, parla Massimo Bernardini, insomma ancora un appendice dello scontro, ma certo con questo Giuliano Ferrara torna sulla vicenda Ruby. La situazione finanziaria invece è una situazione abbastanza delicata, per usare un eufemismo. Sapete, c'è stato appunto il G20 a Washington. Quello che è venuto fuori è ciò che il Sunday Times, come settimanale britannico, ha anticipato, vale a dire la possibilità di un annuncio di un piano da 3.000 miliardi di euro che sarebbe già stato esaminato e discusso da parte dei ministri al G20 per cercare di salvare in qualche modo l'euro, salvare Atene, salvare la Grecia e con questo anche la moneta unica. Tanto che la stampa titola così a pagina 8: salvate il soldato euro, piano da 3.000 miliardi. Uno sguardo a quello che succede all'estero. Intanto questa notizia che viene data con ampio risalto, ma chissà se la notizia deve essere così salutata con tale entusiasmo, e spiego subito il perché: il voto alle donne in Arabia Saudita. Non perché non debba essere salutata con entusiasmo, ma perché qualcuno dice forse è un annuncio tutto da verificare. Voto alle donne, parola di re, così titola pagina 16 il Corriere della Sera. La promessa è del sovrano dell'Arabia Saudita, Abdullah. Le attiviste gioiscono, ma dicono è solo un primo passo. Per esempio la giornalista Imana Al-Katani, intervistata proprio dal Corriere della Sera, dice: è solo propaganda. Chi dice che è una svolta storica è molto ottimista o fa parte della propaganda del sistema. È l'annuncio che tra qualche anno le donne potranno votare o essere elette. Cosa vuol dire? Non possono guidare, dice per esempio questa donna. Che vuol dire? Che quando verranno elette dovranno essere accompagnate da qualcuno? Che quando dovranno viaggiare all'estero dovranno avere sempre il permesso del tutore maschio? Girano già le battute, ok, le eleggiamo, ma poi come ci vanno al consiglio dove sono elette se non possono guidare? Effettivamente c'è il timore che sia solo un annuncio, però intanto è certo un annuncio importante se mantenuto, e le attiviste in Arabia Saudita gioiscono per questo primo piccolo passo. Mentre vi segnalo che l'Unità, con Umberto De Giovannangeli, uno dei giornalisti più attenti a quello che succede in Medio Oriente, riesce a scambiare qualche parola e qualche un piccolo colloquio con Abu Mazen, il leader dell'autorità nazionale palestinese, proposto a pagina 10 e 11, Obama parlò di Stato per la Palestina, noi gli abbiamo creduto. Il presidente dell'autorità palestinese accetta di parlare con l'Unità prima del bagno di folla alla Mukata, dunque a Ramallah. Non sono io il problema è Netanyahu. Questa si è sentita tante volte, vale a dire rimpallarsi le responsabilità. Il problema è il premier israeliano, dice Abu Mazen, con Rabin, Peres, Sharon, Olmert e Tzipi Livni, con tutti loro negoziare è stato possibile, ma con Netanyahu risulta impossibile. Questo perché sono le sue posizioni ideologiche che gli impediscono di comprendere le ragioni degli altri. Vabbè, voglio chiudere con due segnalazioni. La prima, sempre dall'estero. Sapete come si combattono le campagne elettorali negli Stati Uniti? Anche così. C'è Rick Perry, che è il governatore del Texas dal 2000 e che ha deciso di sfidare molto probabilmente Obama nel 2012 e comunque si è candidato alle primarie repubblicane. Potrebbe essere uno degli sfidanti. E allora Larry Flynt, colui che è l'editore, il porno editore di molte riviste pornografiche, ha deciso di fare questo. Ha fatto un annuncio, ha messo una taglia da $1 milione per chiunque abbia una foto hard del candidato Perry, perché lì in America i candidati si distruggono anche così. Ha messo un annuncio: avete mai avuto relazioni sessuali etero o gay con il governatore Rick Perry? Contattatemi, vi darò $1 milione e ovviamente stroncherò una carriera politica. La taglia del magnate del porno a pagina 7 del Secolo XIX. Ci fermiamo per il giornale radio.